radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Buon pomeriggio a tutti, da Giulio Scalona al microfono e da Tony Cortazzo alla tecnica audio. Siamo questo pomeriggio in diretta dalla Open Arms al Molo 22 del Porto Aperto di Napoli. Siamo qui sul Ponte di Poppa con Riccardo Gatti, il capo missione della proattiva Open Arms, per questa splendida occasione di ormeggio. Ascoltiamo un brano e poi iniziamo con le domande a Riccardo Gatti. Grazie a tutti e buona continuazione d'ascolto. Fucile d'occhiali, il Mediterraneo, una tavola blu. L'Italia corre in coda lungo i guardrail. Dondola in mare la spiaggia, una folla selvaggia che invoca a gran voce la versione in carne ed ossa delle morti vista in TV. Poi finalmente il barcone affollato ribalta e comincia ad affondare. Gli ombrelloni si gonfiano ad un boato di gioie e di saluti per chi da casa è rimasto a guardare. Asciuga e naufraghi stesi sprovvisti di crema solare, tra bimbi coi palloni e le mamme coi pareo. Una solleva un istante lo sguardo schifato da donna moderna. Non disturbare il signore, non vedi che dorme. O non trovava altri posti, sono qui per sdraiarsi. O non è più come un tempo, ci sono cani e porci. Domani sarà la giornata internazionale del rifugiato. Già in questa settimana gli eventi in tutta la regione, così come dappertutto, ovunque si sono chiaramente intensificati. Un esempio, questa manifestazione a porte aperte della vostra nave. Al di là di questo aspetto, le persone che vengono accolte da voi e che vengono aiutate e soccorse in mare, vi è mai capitato per un istante di porvi il problema se qualcuno sta scappando da una guerra, se qualcuno sta scappando perché è in cerca di lavoro, se vuole congiungersi dalla sua famiglia? Anche questo tipo di piano narrativo vi appartiene o vi ponete su un altro piano? No, non ci interessa. Non ci interessano i motivi e non è qualcosa che ci poniamo noi di analisi nello stesso momento del soccorso in mare. Sono persone che devono essere soccorse perché c'è un concreto rischio di perdita di vita umana nel mare, perciò è qualcosa non solo eticamente inattaccabile evidentemente, ma è legislato, è un obbligo. Se non si dovesse fare, evidentemente sarebbe un omicidio per omissione. E il conoscere, il cercare di capire perché le persone fuggono dai loro paesi o sono in viaggio, sì, l'abbiamo fatto a bordo parlandone tranquillamente con loro quando ormai non c'è più il pericolo di vita. E quando appunto ci sono situazioni di mayday, situazioni di pericolo, di perdita di vita in mare, non si sta parlando né di migranti economici, né di persone in vacanza, né di migranti rifugiati o possibili richiedenti asilo, né di terroristi, né di nient'altro. Si sta parlando di persone che stanno per morire e se non vengono soccorse queste persone muoiono. La politica europea quello che sta facendo è far di tutto perché queste persone non vengano soccorse e perciò che per queste persone muoiono. E questa è la realtà che evidentemente le politiche europee e diciamo concretizzate nell'atteggiamento politico italiano fa di tutto per nascondere, no? E per quello che evidentemente le ONG sono testimoni scomodi delle azioni e le decisioni politiche, le azioni dirette del governo italiano, per esempio, no? Allora, grazie Riccardo, e ti chiedo di restare con noi solo per un'ultima, ancora per un'ultima domanda. Noi adesso trasmettiamo un altro brano, Onda su Onda, di Bruno Lauzi. È chiaro che da qui, da questa nave, ha un sapore agrodolce un brano del genere. Vogliamo coglierne il messaggio in positivo, e cioè di un naufragio che, se accolto, può trasformarsi in una grande opportunità, in un orizzonte di vita diverso, dove poter realizzare un progetto di vita che altrimenti scomparirebbe e in questo modo impoverirebbe, credo, tutti sul pianeta, tutta la società che di questi naufragi ne ha conoscenza. Per cui buon ascolto, Onda su Onda, e torniamo dopo per ancora con una domanda con Riccardo Galti. Buon ascolto. Che notte buia che c'è, povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. Sarà L'isola è, il clima è dolce intorno a me, ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda, donne di sogno, banane, lamponi. Onda su onda, mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi dai. Sogno, banane, lamponi. Onda su onda, mi sono ambientato ormai. Eccoci ritornati, e sempre al fianco di Riccardo Gatti. E, Riccardo, io ho ancora una domanda. Durante le missioni in mare, le persone che vengono aiutate, quali sono le competenze? Chi sono le persone che trovano sulla nave? Da chi ricevono soccorso? Com'è composto l'equipaggio? È una curiosità personale, ecco, perché mi rendo conto che a bordo di una nave del genere, già salendo dalla piccola scaletta qui, io almeno stavo cadendo in acqua un paio di volte, quindi mi immagino che bisogna avere una buona destrezza in un ambiente del genere, oltre a delle competenze specifiche di aiuto. Come è composto l'equipaggio? Sì, noi siamo 19 persone a bordo, di cui 9 persone sono proprio l'equipaggio professionista per poter portare la nave, tra marinai, comandante, ufficiale e quant'altro, e poi il restante 10 persone sono tutte persone, quasi tutte, diciamo 9 di queste 10 persone sono volontarie, la decima sarebbe questa figura che ricopro io o ricopre Annabel Montes come capo missione. Allora abbiamo 2 squadre da soccorso, perciò composte da bagnini e piloti di imbarcazioni veloci, un team medico composto da due persone, normalmente una dottoressa, un dottore, infermiera, cuoco, qualcuno cuoca, qualcuno in cucina, che è un ruolo realmente molto molto importante. Poi abbiamo anche due persone che sono dei mezzi di comunicazione, che possono essere video reporter, giornalisti, filmmaker e quant'altro, no? Purtroppo siamo solo 19 persone, perché spesso e volentieri, appunto, quando abbiamo a che fare con livello elevato di persone a bordo, si dorme veramente molto poco, lo sforzo è tanto, però è fattibile. Noi siamo la prova lampante che alla fine evitare che le persone muoiano in mare è facile, basta volerlo fare, no? E se non si fa, se le persone stanno morendo in mare, è perché non si vuole fare, e si vuole fare proprio il contrario, far sì che queste persone muoiano. Riccardo, la semplicità del bene, in pratica, cioè io non so come altro descriverlo, è per me è un'emozione stare qui, quindi sentire le tue parole, la quotidianità, la semplicità di quello che avviene qui su è qualcosa di sconvolgente, perché generalmente invece vengono raccontate queste operazioni come se ci fossero delle grandi macchinazioni internazionali, delle complessità inaudite, e rinfranca sapere invece che c'è la semplicità del bene, ecco, che le cose sono più chiare di come talvolta vengono fatte apparire. Il motivo per cui siete anche qui con la vostra nave, per far visitare alle persone qual è questa semplicità delle vostre missioni, del vostro quotidiano, in cosa consiste il vostro lavoro, il vostro impegno in mare. Sono anche tanti gli impegni culturali che stanno animando la nave in questi giorni, anche più di quelli che trovate in rete sulla locandina ufficiale, perché tanti eventi, mi diceva Riccardo prima, si stanno avvicendando anche al di là del programma ufficiale, e questo, diciamo, ben rappresenta lo spirito di accoglienza che poi accomuna tante persone anche sulla terraferma. Cosa c'è in programma? Oggi state aspettando Francesca Mannocchi, e quali saranno i prossimi appuntamenti? Come fanno le persone a raggiungervi? Sì, noi siamo qua al Molo 22, praticamente arrivati all'edificio della Guardia Costiera, si dirige sulla destra e si entra appunto nel molo, si vede subito la nave. Oggi, come ben dicevi, arriva Francesca Mannocchi, dovrebbe arrivare a momenti, e alle 6 c'è l'incontro con lei, presentando il libro e dibattendo un po' o ascoltando di prima mano il racconto di cosa succede in Libia, di com'è la situazione in Libia, visto che Francesca è molto esperta riguardo a questo tema. Domani ci sarà un'opera di teatro molto importante, che è uno spettacolo teatrale chiamato Uomini in gabbia, che è un progetto del regista Mario Gerardi, e qualcosa di molto importante, perché vogliamo anche celebrare la giornata del rifugiato e della rifugiata in un modo importante, in un modo anche per passare un po' di tempo a bordo assieme e cercare di vivere questa giornata con semplicità, senza che sia vissuta questa tematica sempre come qualcosa fenomenologico o pesante, perché non lo può essere, come non può essere pesante la solidarietà è un atteggiamento normale di aiuto fra le persone. E poi invece il 21 avremo un incontro, conversazione moderato da Luigi Manconi, ex senatore, ex direttore della Commissione del Senato per la difesa dei diritti umani, ex presidente dell'UNAR, l'ufficio antidiscriminazione. Una conversazione moderata da lui tra il nostro fondatore, quello che vi raccontavo, il ragazzo, l'uomo, la persona che 3 anni fa, ormai quasi 4, è partita per andare in Grecia come volontario, e da lì riuscito, è stato diciamo il primo volontario di Open Arms, e Roberto Saviano che verrà a bordo e potremo conversare su ciò che sta succedendo, evidentemente anche a radice dell'ultimo libro di Saviano, che appunto si chiama in mare non esistono taxi, no? E questo è un po' diciamo il programma degli eventi, ma vorrei ricordare che noi dalle 10 di mattina all'1 di pomeriggio e dalle 4 di pomeriggio alle 8 di sera siamo sempre aperti per far sì che le persone possano venire a bordo, vederci lavorare. Stamattina i ragazzi dell'equipaggio stavano lavorando, c'era da pulire la nave, pitturare dei pezzi e conoscere chi siamo e farci anche le domande appunto che sono lecite, no? Chi ti paga, perché lo fai, chi sei, ma perché fate quello che fate e anche conversare proprio su poter ricevere delle risposte di prima mano da noi riguardo a quei quesiti che sono leciti ed è normale, ma che spesso e volentieri vengono diciamo vengono risposte da chi non sa niente di quello che sta succedendo e tra l'altro ha un'intenzione criminale di dare una versione dei fatti totalmente falsa. Riccardo, io ti ringrazio tantissimo, ti libero perché so che appunto, come avete sentito, le attività sono tante, anche qui adesso il ponte si comincia ad affollare di volontari e di visitatori. E quindi io ti ringrazio davvero di cuore per questa bellissima conversazione che abbiamo avuto, così come ringrazio Veronica Alfonsi che ci ha subito aperto la nave e continuiamo con la nostra trasmissione, con il collegamento da Caserta, ascoltando la voce di Virginia Crovella dello SPRAR di Caserta, che è impegnata nella commemorazione della giornata internazionale del rifugiato per quello che riguarda appunto l'accoglienza a terra dei rifugiati e dei richiedenti asilo. C'è un brano musicale e in questa pausa ci mettiamo in collegamento telefonico con Caserta. Buona continuazione d'ascolto, a tra poco. Eccoci rientrati in diretta. E discover noi siamo new a music telefono app. In collegamento telefonico KXP con Virginia Crovello. Siamo sempre qui in diretta dal Ponte di Poppa della Open Arts ormeggiata al Molo 22 di Napoli e ci colleghiamo con lo Sprar di Caserta, dove oggi c'è una lunga serata ricca di eventi, di interventi nella commemorazione in vista della giornata del rifugiato di domani. Virginia, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, immagino che anche lì a Caserta il sole sia bello forte e sì, potente, ok? Si fa sentire, per fortuna. Si fa sentire. Come sta proseguendo la giornata, l'organizzazione di oggi? Che cosa avete in programma? Allora, qui siamo quasi pronti, tra un paio di ore partirà questo concerto. 6 ore di musica non stop, messo su da circa 70 musicisti provenienti da varie parti del sud Italia, musicisti che gratuitamente si esibiranno sul palco. Hanno deciso di fare questa giornata in solidarietà con la rete di accoglienza Sprar, che esiste a Caserta da 13 anni, ed in solidarietà con l'ente gestore dello Sprar di Caserta, che è il centro sociale ex canapificio, messo sotto sequestro 3 mesi fa. Lo Sprar, lo ricordiamo per quanti in ascolto, ormai Sprar e Siproimi sono i cosiddetti percorsi di seconda accoglienza che accompagnano i richiedenti asilo nella costruzione, nell'avvio di un progetto di vita autonomo sul territorio nazionale. E Virginia, anche il vostro Sprar sta attraversando un momento di difficoltà, siete in presidio al comune. Come stanno proseguendo le vostre attività al di là della giornata di oggi? Le nostre attività stanno proseguendo nonostante grandi difficoltà. Siamo riusciti a mantenerle tutte, anche se il 12 marzo è stato messo sotto sequestro per ragioni strutturali lo spazio sociale che manteneva un po' tutte le organizzazioni dello Sprar, quindi il centro sociale ex canapificio. Immaginate, lo dico a chi ci ascolta, un capannone di circa 2000 metri quadri che dal 99 era uno spazio sociale, sede di numerose attività, da cui partivano tante delle cose che rendono lo Sprar di Caserta un'eccellenza nazionale. Quindi il centro è stato chiuso il 12 marzo, le attività dello Sprar regolarmente sono continuate, ma con grande difficoltà. L'aggravio poi c'è stato il mese scorso, quando il Ministero dell'Interno illegittimamente ha bloccato il finanziamento dello Sprar a partire dall'ultima tranche del 2018, e quindi siamo senza fondi da parecchi mesi, e abbiamo attivato una raccolta fondi cittadina e nazionale che per fortuna oggi ci consente di sopravvivere. Virginia, immagino quindi che sia un momento davvero duro, e una giornata del genere spero che sia una bella boccata di aria fresca e di gioia per il vostro lavoro quotidiano. Alla base del vostro lavoro c'è un'idea di integrazione molto limpida. Parlavamo prima con Riccardo Gatti, il responsabile della missione della Open Arms, parlavamo della semplicità del bene. Anche nelle vostre attività quotidiane dello Sprar ci sono servizi rivolti sia ai cittadini italiani ma anche ai richiedenti asilo. Cosa state portando avanti in questo periodo? Guarda, le attività principali dello Sprar sono così intrecciate con le attività per i cittadini che qui ci sono nati, per gli autoctoni, che veramente sono un tutt'uno e danno vita a quello che noi chiamiamo modello di inclusione sociale bilaterale. Quindi quello che proviamo a fare dal 2007 è semplicemente costruire un contesto di città inclusiva. Un contesto dove, a prescindere da se io qui ci sono nata o ci sono arrivata perché scappo da guerre o da miseria, io riesco a trovare occasioni dove posso collaborare con altri cittadini per migliorare il territorio. Per esempio, qui a Caserta si fa il piedibus, si accompagnano a scuola a piedi 200 bambini in 5 scuole diverse per ridurre l'inquinamento, e lo fanno anche i rifugiati dello Sprar assieme ai docenti, ai genitori. qui a Caserta ci sono esperienze molto avanzate di gestione condivisa di luoghi pubblici che vengono gestiti da richiedenti asilo dello SPRAR e da residenti dei rioni popolari. I richiedenti asilo dello SPRAR qui sono anche educatori, fanno dei corsi gratuiti per bambini ormai da 7 anni di inglese, francese, musica ed arte ed aiutano le famiglie indigenti ad ottenere maggiori forme di sostegno al reddito. Quindi c'è una collaborazione assolutamente trasversale e costante, e questo è molto utile a creare degli anticorpi al clima di odio e di intolleranza che si respira in questo paese. E quindi è semplicemente, tra virgolette, questo quello che proviamo a fare, che forse dà molto fastidio attualmente al Ministero. Questa è la semplicità della solidarietà, la leggerezza che accompagna chi è animato da buone intenzioni e chi si occupa di integrazione per provare a rendere la società un posto più abitabile per tutti. Virginia, io ti lascio l'organizzazione della giornata lì a Caserta. Per chi volesse, anche a Caserta le attività culturali inizieranno a partire dalle 18. Sul sito www.stranieriincampania.it trovate il programma completo della giornata a Caserta. E Virginia, io ti ringrazio e ti saluto a nome di Radio Antenna Migrante. Grazie a voi, un saluto e un abbraccio particolare a tutti gli attivisti e gli attivisti dell'Open Arms. Riferiremo, sono tutti in piedi perché cominciano ad arrivare davvero un sacco di persone. E Virginia, noi ci troveremo al presidio a Caserta con la nostra radio per approfondire tutte le attività di cui hai accennato prima. Un abbraccio e buona festa a tutti. Grazie mille Giulio, un abbraccio a tutti voi, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, eccoci, ringraziamo anche Virginia per il suo contributo da Caserta. Questo è il modo che Radio Antenna Migrante ha per rappresentare qual è la filiera, il percorso della solidarietà tra persone, tra esseri umani in questo momento storico, dall'aiuto in mare all'aiuto su terra per provare a costruire orizzonti di vita diversi, e speriamo di esserci riusciti. È stata, credo, una delle puntate tecnicamente più Tony, il nostro fonico, annuisce perché non abbiamo mai trasmesso da il ponte di una nave, da una nave con una storia come quella della Open Arms. Ringraziamo Riccardo Gatti, appunto, che è stato con noi fino a poco fa, e vi rimandiamo alle prossime attività. Seguite i nostri canali social, scriveteci e buona settimana a tutti, buon sole, ciao. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante vai sul sito www.stranieriincampania.it. RAM vive all'interno di Impact FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.